centrale ho capito che era lui, ma dal segnale non lo vedi già, già lo so io chi è quando vede segnali. Va bene, va bene. Allora Titi, non li prendi? No, io per dire la verità non sapevo, cioè, non capivo nulla di quello che diceva, quindi non mi permetto di fare nome perché non sapevo chi era, quindi, ma tu già, essendoci più di me, diciamo che l'hai conosciuto. Sì, ma ho cercato di centrarlo, quindi sentivo in parte la voce, quindi l'ho riconosciuto per quello, altrimenti non si capiva niente. Avanti, Tony. Andavo, sì, era tutto tipo di frequenza, capivo qualcosa ma quasi niente. Troppo male. Chissà cosa ci avranno. Andò bene, avanti Antonio. No, la verità, io l'avevo capito la parola metà, ma non lo vedevo che il segnale era da Muros, cioè, perché un po' lo conosco, dai. L'avevo capito subito, poi avevo capito un pezzo Claudio, avevo capito e ho capito che era lui, capito? Insomma, tu hai capito o hai capito, va? Io non ho capito. Che ha fatto? Un donto, ma già non so, un donto. No, ma noi siamo contenti che tu hai capito. L'importante è che abbia capito. Vai Gianni, vai. Mi piace troppo ridere che non ridi Antonio. Adesso si metterà a posto, ma già ne ha tanti di apparecchi, lo sostituirà se lui, dai, se lui lo sostituisce e poi si fa sentire con l'altro, vediamo un pochettino, ci sei Claudio? No, so che stava sistemando una radio Gianni, quindi sicuramente c'era in riparazione, sono qui ieri mattina che ho arrivato il frontale nuovo nella busta, nuovo, domani mi porto la radio a Luca, me lo sostituisce, il frontale nuovo dell'Inuit, me l'ha procurato lui, me l'ha fatto avere lui, tutto il frontale nuovo, proprio da togliere quello vecchio e mettere quello nuovo, col monocolore nuovo, spettacolare, dentro la busta, di nuovo, è un campione, gli sono Gianni, introvabile quel frontale, lui l'ha trovato. Ma quello che ce l'ha rotto per te? No, lui si è rotto la monopolina dei canali e lui mi ha procurato tutto il frontale nuovo dell'Inuit base, con tutte le sue scritte, tutte le cose, perché queste sono tutte scolorite, brutto il frontale, la verità, la radio è nuovo, ma il frontale brutto, questo è nuovo, proprio tutto il frontale, da smontare quello vecchio e mettere quello nuovo. Vabbè. A chi lo porti? A Luca Flipper? Sì, domani lo porto a Luca, Sapenta, Edo, ma giurà, anche se ci sono quattro figli mi da cambiare, però non li voglio, non sto bene già, mi ha detto di portare, già sarà già lui, e così mette il pannello nuovo, tutto il pannello, il frontalino nuovo, come quelli che cambiamo dall'an 48, così si toglie quello e ci mette l'altro, e questo è nuovo, perché lì non c'ha le scritte e non mi piace. Gli avevo detto a Gianni, scherzando così, invece me l'ha procurato davvero, ieri mattina sono andato e me l'ho ritirato. C'è anche il monopolone dei canali nuovo, tutto nuovo, dentro la busta, non è esatto. E dove l'ha buscato questo coso? Su internet? No, non è su internet, ma è dopo le azionisti a Minisuri, lui. Ecco, lui fa parte di quella gente lì che colleziona apparecchi antichi, di vecchia era, la diciamo. Andava fino avanti. È sempre meglio dar conto di queste persone, visto che non c'è qualcosa. Basta chiedere se si impegnano e ci si riesce, tanto meglio, no? A proposito, Tino, ti voglio chiedere una cortesia, sempre che me la puoi fare. Se ne posso, ben volentieri, Gianni. Allora, io ti avevo dato tutte quelle vitine insieme a quella roba lì e praticamente adesso mi sono accorto che ho le viti della slitta che hanno la testina più larga e non, la slitta non va. Non è che tu non hai usato qualcuna e ce l'hai da darmela, no? Guarda, devo verificare perché l'ho chiuso in una scatola, viti, vitine e quant'altro. Credo che c'è qualche cosa, però non so se l'ho utilizzato o meno, già, perché l'avrò sostituita sicuramente. Ma con le vecchie, anche con le vecchie, a me mi interessa solo che la slitta funzioni, perché con lui sicuramente lo metto in macchina e quando lo devo togliere mi serve che la slitta esca, capito? Allora, a te ti servono due vite piatte e due invece che sono rialzate, che sarebbero quelle superiori, dove va a fermarsi la... cosa l'ha fatta, se non sbaglio. Cappa, sì sì, è così. Cioè l'hanno... quelle per non uscire la slitta e l'altra per bloccarla, quelle per non uscire sono quelle di dietro, quelle di davanti devono essere quelle piatte di modo che esca, capito? Cioè il contrario, voglio dire. Infatti dietro sono lisce, sono piatte come la slitta, e invece davanti sono per bloccare. Guarda Gianni, se ci vediamo per volentieri non c'è problema. Perché ho questo cruccio qua, che se non lo posso togliere non è messo, capito? Se lo posso togliere lo posso fissare così. Guarda a te che te l'ho mandato il fontanino appoggiato nella base della scrivania e il fontanino attaccato alla radio, almeno non è la differenza. Nuovo. Lo sto guardando, sì. Nuovo. Vediamo un po' se Claudio si è chiamato. Attenzione, Muros. Ah, te lo stai cambiando perché... poi ti lancio a Claudio. Perché è usurato nella monopole. La monopola si è rotta, capito? Quindi me l'ha data nuova. C'è la nuova, la monopola dei canali. Ma se guardi bene, quello che ha attaccato alla radio, che ha fatto la foto alla radio, l'hanno carteggiato, invece per pulire hanno cancellato tutte le scritte, capito? Radio non va nuova, non c'è un graffio. Però il frontalino fa un po' così, capito? Allora me l'ha dato nuovo. Se tu guardi bene che lo allarghi, invece ha tutte le scritte, quello nuovo. C'è tutte le scritte, tutto ordinato, nuovo. Sì, ho visto. È brutto senza scritte. Ho provato a comprare i trasferibili, faglielo, ma viene male, viene storto, si vede che non è suo, non c'è bugato di tutto. Poi ho parlato con Gianni, siccome la taluca, la radio è perfetta, è funzionante al 100%. Ho parlato con lui, ma non ti preoccupare, dammi tempo, già te la procuro io. Ieri mi ha chiamato, la verità, non mi ha tenuto la parola e mi ha procurato non solo la manopola ai canali, perché a me serviva quella, ma tutto il frontale nuovo mi ha dato. Sì. Bene. Vabbè, con Gianni già ci facciamo cortesia a vicenda, non so più bene, una persona che si è sempre fatta in quattro, quindi lo tengo molto in considerazione. Ok, a chi tocca? Tonino, riprendi, dai. Ecco, 3-0 vincendo l'Italia Under 21. Un gran baccacco a Lussemburgo, effendi. Stasera c'è la grande, poi. Diverso il microfono, che io devo dare un'altra mano a Colombia e a Emanuele. Già riesco a autorare da fuori. Alla prossima, è molto Sigmo, ciao a tutti. Non ho capito niente, cosa hai detto? Devo dare un'altra mano alla mobile di Emanuele, quella macchina cucina antica, capito? Il mobile l'ho messo male, l'ho esterrato, è stato mal di fondo, non lo sentico, tutto qua. Ho detto, vi ascolto, un agricolo X, buon proseguo e ciao a tutti, ripeti qua. Ehi, pensavo che avevi già finito quel mobile. Va bene, Tony, dai, ci aggiorniamo allora, a troppi, stammi bene. Vai, Antonio. Vabbè, Antonio non c'è, ma ciao Tony, ciao. Buona continuazione di... cosa stai facendo? Stai dando impregnate e quant'altro? E capo, sono sceso un attimino giù, ditemi. Vabbè, ciao Tony, ciao. Sei andato Tonino. Ma ciao, salutoni Tonino, ciao. Ok, riprendi Claudio qualcuno, va. Io scendo giù un attimino, sto sottolineando il televisore. Come stavo dicendo a te che mi sono andato a chiudere la porta, cos'hai detto? No, Antonio, stavo dicendo Antonio che sei andato a Tonino. Ah, l'ho pagata. E così lo faccio cambiare domani a Luca ti capito. Gliel'ho detto, ma sono una porta, ma ho detto il cambio la fece via. Sì, un piccolo goggio, vedo a demoreda e faccio qualche cosa. Lo so. Vabbè, scusate che stia riprendendo anche lui. Sì, sono contentissimo, ci siamo incontrati tutti i giorni. Sì, la cura sta facendo bene, è tipo quella che è venuta a me con l'emorragia oculare, con la T. via. Che discorso avete fatto? Che sono al telefono. Oh, via, mamma mia, non mi lascia sempre 5 minuti. Stavo rispondendo a un messaggio. Vabbè, dai. Comunque, niente. Stasera è un po' così. Mi sono addormentato anche io. Un bel po'. Ho fatto proprio come un sasso, mi sono addormentato. Poi quando mi sono alzato capivo se era giorno o notte. No, io invece mi sono svegliato, l'ho preso sonno subito perché ho un po' di sonno arretrato ultimamente, visto sto uscendo presto da casa, quindi 5 e mezza, 6, tra una cosa e l'altra, poi facevo colazione al bar e quindi al lavoro siamo intorno alle 7 e mezza, 7, 9, 20, dipende da dove dobbiamo andare, dai. No, non sono sdraio, mi ha anche appoggiato la testa già, ho dato di mio, sono alzato forse 5 e mezza, se non 20, non so. Io lo stesso oggi, forse dalle, non ricordo che ora era, ma alle 4 e mezza mi sono alzato. Vabbè, un po' di riposo ci vuole sempre, ogni tanto, vabbè. Cosa fai? Metti buon esordio dall'idreno e poi cosa fai? Non è che fai in giro, io sono uscito stamattina, ho fatto tutto quello che devo fare, basta, no, per il resto poi io non vado da nessuna parte, poi tra l'altro non so neanche bene, perciò avanti già. Scusate, che mi devo allontanare, che devo aiutare a fare i compiti al bimbo. Ciao a tutti, aiuto, spegnete. No, spegne, no, magari lo abbasso il volume. Ma chi è? Luca Bicicletta? Qui Ma chi è? Luca Catarella? Oi, poi te ne sei coccoli. Dove sei? La mamma? Mamma è morta, babbo lo stesso. Stai usando tu? Perdona, che mi sembra che Luca del Monte, cazzo. Nasina bassa, cioè bassa, ma alta è alta, ma è nasina, è fino alla modulazione. No, per me infatti l'ho preso per Luca Manicomio, per quello te l'ho detto, c'era la mamma. Mi baia, dopo quella di più 5, dove? Guarda adesso ti. No, non è. Per me ha cambiato la modulazione. Non so se ha cambiato il microfono. Non so da dirti, non è amplificata come prima, ecco. Non lo so qua, secondo te? Non è la modulazione che usi normalmente. Dall'altro giorno la gamba è bucata il microfono. Non ho toccato niente qua. Allora, aspetta. È tutto a posto qua. Il microfono è sempre quello qua. Ma la potenza quanto ce l'hai? Aspetta che ci vado a vedere. 4. La potenza è 4. Posso aumentare un po'. Ecco. Vedi un po', ma non credo che cambi molto. Allora, usciamo dal menu. Vedi un po', com'è adesso? Sì, già va bene, vai. A prima impatto, ti ripeto, mi sembrava Luca del Monte. Lasciala così. Però, ti ho sentito in un'altra occasione, ti ho sentito meglio. Non so perché. È più metallica come retrottino rispetto a come ti ho ascoltato altre volte, capito? Antonio, come lo senti tu a Luca? A chi? A Luca Flipper, come lo senti? Ciao Luca. Allora, mara, mi c'è. È una bomba è qua, mi si è ingrugliurato tutto, ecco qua, una bomba è qua, e oh che fortissimo, lo sento benissimo, lo sento. Ciao. Eia, no è che sto facendo anche altro. Non ho toccato niente qua niente, la radio e il microfono sono sempre quelli. E capa, io fa così che capa, non ti avevo sentito bene, però funziona, va bene, dai. Ti stava arrivando la voce, nasina, hai capito, non è amplificata come dovrebbe essere. essere lunga. Se vuoi ti registro, ti mando. Ho tolto il compressore. Oh, qua con la bici. Non lasciare attaccato il compressore lui. No, rispetto, io qua non ho toccato niente. Che sia del microfono, ma è tutto a posto, poi qua non tocca niente nessuno, ho impedenza, tutto il resto del microfono a posto. Non usaccio. Mettila a 500 l'impedenza, prova. Aspetta, allora, 500. Ecco, adesso è a 500 l'impedenza. Come fatti? No, peggio. Infatti, va peggio, non rimettere a 50, rimettere. Ripeto, io ti ascolto, però in altre occasioni ti ho sentito molto meglio. L'informazione di Tino è più che precisa e logica, non so che cacchio l'abbia preso al microfono. Come va, allora, avvicinate un pochino al mic dal parlare e vediamo se cambia qualcosa. Così sono a 10 centimetri, oddio, ma io sono sempre a un metro come minimo dal microfono. Non so cosa dirti. Se vuoi ti prendo un po' di catarro, così fai. Prova a parlare più vicino, no? Guarda, prova, 1, 2, 3, così sono a 4 dita dal microfono. 1, 2, 3, prova il microfono. È più forte, però hai sempre tonalità medio-alta. Manca molto di bassi. È vero, ha migliorato, però non ti puoi ingoiare il microfono. Non vedi acuti lì, per capirci. Però mancano i medio bassi come questa, capito? Come quella di Tino. Tutto lì. Che microfono è? MC60. Ah, non deve uscire così l'MC60, no? Ma lui non sta usando un K, no? Lui sta usando 706 da Icon, quindi è un ottimo abbinamento. Va benissimo. Ah, non devi scegliere la MC60, che buon fa, come il tuo. Ma ti sto dicendo, non è sul K, non è sul Kenwood, capito? La MC60 è nata per lavorare sulle radio Kenwood, se tu lo metti su un'altra radio non lavora come lavora col Kenwood. Sì, è vero già. Un ottimo. Sì, c'era un ottimo abbinamento, però cosa ti posso dire? Ti faccio un paragone stupido, tipo che ti posso paragonare? È come che ci metti anche la Kimbo, ci metti anche il Vio 5, non è che non vanno, già fa lo stesso, ma non è il suo microfono. Avanti, chi è? Buonasera. Ciao Claudio, Tino Muscolo, buonasera. Compagnia di Claudio, Antonio e Luca. Avanti Claudio. Sì, ti ascolto. Io ti ascolto un po' meno degli altri, perché sono in zona più bassa, ma riesco a capirti Claudio. Va bene, dai, ti rilancio a Sparghero, così porta avanti questo a lui. Dai, vai Claudio. Ciao Rolie, buonasera, ben ascoltato, sì, 59 più 10, la radio adesso è buona, ok, vediamo un po', Luca Flipper, vai Luca. Ehi, buonasera, mi permette di voler entrare, che intanto sto facendo roba qua. Luca, anche io devo spostare, dai, a dopo la casa. Sì, va bene per tutte e due. Allora, cambio per Antonio Bombo, vediamo un po' se ascolti bene a Claudio D'Amuro, sempre vai. Scappa, salutoni Claudio, salutoni, ben sentito. È un po' bassino, mi sta arrivando, veramente, non lo so. Scappa, salutoni Claudio, mi senti? Ma adesso ti ascolto bene, come ti arrivo lì a Muros? Kappa, no problemi, dai, io già ti sento bene. Cioè, non sei fortissimo di segnale, ma qua già arrivi bene lo stesso. Dai, sarai 7-8, non di più. Buonasera Claudio. Kappa, no, poco fa ti ho sentito, era incomprensibile, non avevo capito manco che io. E vabbè, dai, tutto bene, ciò che finisce bene. Avanti Claudio. Sì, va bene, Claudio, va bene, non c'è problema. Non è esattamente la modulazione che piace a me, devo dirtelo. Molto tonalità medio-bassa e chiusa, come in pratica. pochino più generalmente, sinceramente parlando, però abbastanza comprensibile rispetto a prima, riprendi? Dai, no, già non c'è problema, neanche io qua già ti ascolto bene. Certo, non è che c'è una modulazione fortissima, però fa bene, no? Non c'è nessun tipo di problema, non c'è. Avanti già. Ehi, adesso Claudio, che microfono stai usando? Andava, già va bene, non c'è problema. Chi siamo rimasti? Io, tu, io. Antonio, e poi chi c'è? Claudio, e poi mi sa che deve riprendere che è Claudio. Avanti Claudio. Ehi, Attino e Luca si sono allontanati un attimo, c'è una gente. Ok, va bene. No, ma va bene la radio, va bene, solo che la modulazione che usi tu normalmente mi piace di più, ma più medio-alti, questa c'ha i medio-bassi, ma no, non è un granché, io l'ho avuta quel tipo di radio, funziona per carità, però non è un granché, preferisco più il K a quella oppure un baracchino con un microfono buono come ci avete voi, che ne avete tanti. Ok, di domani mattina do la radio a Luca, qua, di notte, così mi cambia il frontale, mi sostituisce quel pannello, perché intanto io non sto bene, sia che sbaglio qualcosa, già si affetta lui, senza affetta, non c'è problema. Vai qua, manca paragone di radio, questa esce bene, normale, però è chiusa con la modulazione. C'è la tonalità troppo medio-bassa, non lo so, capito? Mentre invece l'altra chiesa normalmente è molto più forte, più chiara, più tonalità acuta, tutto qua. Avanti, bombo! Sì, cappa, dai, diciamo che già va bene anche questa qui, dai, ecco già! Ma chi è questo? L'Inuiti? Che baracchino è? Che apparecchio è questo? Come si chiama? Ma quello che sta usando Claudio? Sì, che apparecchio è quello lì? Ma quello è un Yaesu, una 7757, tipo questo che sto usando io, però è della Yaesu, capito? AK, ho capito. Claudio, AK, no, già va bene, no... Cioè, magari poteva essere un po' più forte, però meglio di nulla, meglio di niente, come diceva una salsa, meglio di nulla. Ok, riprendi io. Ho già. È un attimino che sono al telefono. Papà, mamma mia. Lascialo fare. Ehi, già va bene. Ok, mi è arrivata una foto, ma gli ho compreso nulla comunque, vabbè, se non la vuoi commentare a chi me l'ha mandata, perché non ci ho capito un accidente, vabbè lì no, ma con i piccini vai gucci, c'ho gli occhi che mi stavo lacrimando, cazzo, poi sono al buio perché mi era fastidio la luce, ma con la TV accesa sto guardando la partita. Lussemburgo Italia, Under 21, 4-0 con l'Italia, e cosa mi sia? Beh, non si sono pure gli amici, oggi abbiamo grandi giocatori, ci abbiamo un po' di amici, vabbè, qualche volta ci abbiamo bigliato, però... E questo è l'Under 21, è quella piccola, stasera gioca quella grande, alle 8 e mezza, questa è iniziata alle 5 e mezza, mi sembra, sta per finire, 78esimo infatti, sta per finire. Va bene, babbo dov'è qua? In garage o lì a casa? Cappa, dai. Dai, bianco per me che io vado, devo per forza, vado a fare la cena, dai. Dai, buona serata, dai, io magari vi sento più tardi. Ciao Anto, dai, già ci sentiamo più tardi, e anch'io ancora un pochino poi stacco perché mi siete montane, anche se non ho voglia. E poi anche io vado a cenare, mi sdraio, perché stare seduto qua in questa sedia è un casino. Mi fa male un po' la schiena. E poi c'è un caldo, avrei anche qualche lineetta di freddo aperto anche la finestra. Va bene. E qua le metti in lock, metti 27.075 e schiacci il lock. Capito? E così non ti sposti da nessuna parte. Lasci stare così. Glielo so, devi stare attento a quelle radio, perché se quello che tocchi si mettono a camminare da sole, soprattutto lì se tocchi lo scam, guarda, non si ferma più per fermare, devi schiacciare il PTT, infatti per quello metti il lock. No, guarda, questa è favolosa perché a me è sempre piaciuta, anche se è una radio, c'è un baracchino a sintonia continua, come lo chiamo io, 140, però è favoloso perché c'ha il VFO grande, dove vai col VFO, e poi c'è il VFO memorie, che praticamente è come un cambio canale, io ne ho memorizzato 30, perché c'ha 30 memorie, e vado con quello lì, capito? Non uso il VFO grande, e quindi è come che stai usando un baracchino, vai. E va bene, la differenza è delle 430 e le 440 che sono VFO centrale, questa va bene anche per quello. Vediamo un po' se Gianni ha finito di telefonare, se vuole riprendere, ce lo riprendi tu. Diciamo che sto messaggiando, non telefonando, non ho ancora finito, sto ancora andando, ma comunque già posso riprendere, non c'è problema, mi senti, glu, glu, glu, sempre un messaggio dopo l'altro, ohia, ho il dito che mi fa male. Sì, fa già, già siamo qua, non c'è problema, riprendi qua. Com'è qua adesso? Ma qual è quella che, quel baracchino stava riparando qua? Lì, tante cose possono essere qua. Vabbè Gianni già si attenta, vai. Già si attenta Gianni, vediamo un po'. Ok, avanti Bobbio. Claudio. Cosa? Becco. Avanti. Ciao Claudio, ciao l'altro Claudio, ho sentito il doppio rumore di sfuggita, poi c'è qualche un altro. Ah, c'è Antonio Bombolo che sta salendo e scendendo e sta preparando la cena. Riprendi tu e vai per Claudio di Muro, se Gianni è il più lungo, un attimo ancora lì che si attreve. Io, ciao Claudio, avanti a te Claudio D'Amuros. Ciao Bert. Anche da parte mia piacere di ascoltarti, anche se ogni tanto ti vedo su Facebook con qualche prova di radio, mi sono anche risentito un paio di volte. Ok, no, tu sei alle 9:15, la radio va bene, con cosa stai uscendo? Ah va bene comunque, quello, il gemello di quello che c'ho io, in parole povere. Sì, quello quando ci avrò tempo lo farò vedere a qualcuno. Comunque, e che microfono stai utilizzando per quella radio? No, stai andando benissimo, bella modulazione, non è fortissima, amplificata, però è molto chiara. Ma ti stai aiutando? Ok dai, facciamo riprendere a Claudio. E beh Claudio, tu sei salvato, ho visto il segnale, è ritornato come prima. Sì, ho un'ispezione, infatti li ho buttati tutti via quegli ispezioni. Adesso sto usando l'ispezione, quello del TL922 con i connettori quelli in vetro, porcellanati, capito? Ma con fase di difetto. Se no c'è il rischio che si faccia la radio, ci manca solo quello, cacchio. La radio funziona perfettamente. Questa qui sarebbe questa che stai andando adesso, così. Sì, quella di stamattina. Ho tolto il connettore e ne ho messo un altro. Ha ripreso, capito? Ma me l'ha già fatto un paio di volte, c'è un dispezzone vecchi che ho infatti ho tutti la cassetta buttati via proprio. Buttati via, PL e tutto, non serve niente. Sono quei PL che vende Fusaro. Siccome ne ho altri nuovi, allora uso quelli nuovi. Questo è con i connettori, quello originale che è, lo spezzone grigio del DL922 da 90 cm con i PL in vetro, porcellanati, capito? E quelli sono per grandi potenze, poi le saldature, questi che vengono anche a me l'altra volta mi faceva uscire di testa, era uno di questi già preassemblati, questi già intestati che vende la GBC, ma è roba economica, non vale nuda. Con il 58 poi le saldature sono fredde molte volte, è una cagata, è meglio che te le fai tu, usi il cavo buono e sei più sicuro. L'altro giorno, quando mi è successo, ho preso il cavo nel ricevitore, ho detto ma è possibile, ci siamo abbassati tutti i segnali, come lo muovevo, ho detto oh, cacchio, ed era il coso di quelli già intestati. Allora me lo sono fatto nuovo, ho saldato anche la carta e tutto, adesso finché dura non lo tocco più. Non serve a niente, no, non è RG58, non è RG58, sono spettoni 213, che usavo prima, capito, ma i PL sono vecchi, e allora ho messo quello, è un H100 quello, con i connettori in porcellanati. E va la grande, vai, che poi non serve a niente, intanto adesso ne accorgo lo strumento, l'avevo messo per provare quando mi sono spostato da una base all'altra, però adesso ne accorgo, metto l'antenna diretta. Ok ragazzi, io però vi devo salutare, dai, no, non ce la faccio più a ricevuto qua, insomma, la schiena, e no, non ce la faccio più. Quindi per il momento vi saluto, ciao Claudia, saluto a Babbo, grazie di tutto, poi già ti mando la foto di come è venuto l'Inuit col frontale nuovo, vai. Ciao Roberto, ciao Antonio Bombo, Gianni Otterrum e chiunque fosse in ascolto, ok? Ricambio per Claudia Di Muro, se ascolta il finale poi chiudo. E allora dai, già ci sentiamo, dai, quando vuoi, già lo sai dove sono, dai, non c'è problema. Buon tutto, buon proseguo di serata, dai. Faccio riprendere la doppio rumo, se c'è, se no riprendi tu Claudio. Ciao, ciao a tutte e due, a tutte e tre, anzi, grazie dei saluti, a più tardi, se coincide, se no domani, ciao ciao. Claudio Di Muro, stavo dicendo che il microfono sta usando il normale da palmo, ma lo suo originale o uno qualsiasi? Ma il tuo 757 cos'è? GX normale o l'1 o il 2? Cos'è? E cosa cambia da uno all'altro? Magari c'è qualche aggiornamento, magari qualche fesseria, tipo quando fanno l'appunto, prima serie, seconda serie, la base, la scocca è sempre uguale, magari ti mettono una cagatina dentro, qualche miglioramento, tanto per dire che è aggiornato e basta, poi magari le radio sono identiche. Cosa volevo dire di altro? Io devo fare lo stesso, devo fare il collegamento a quel Pony 23 canali che mi ha dato Claudio per provarlo il microfono da coso, ma cos'era, non so se è statica o cosa sia, boh, non me lo ricordo neanche, è amplificato, volevo fare, avevo fatto le connessioni come era col colore di come era l'altro, però c'è qualcosa che non va perché rimane sempre trasmissione, volevo invertiti, però non ho avuto tempo, se no l'avrei provato. E infatti te lo volevo chiedere, la domanda era quello, se c'aveva il processore inserito. No, sei distorto, molto più forte, però sei distorto, è regolabile il processore, aspetta fammi vedere se c'ha il, se è fisso o se è regolabile, no, non sembra di no. Guarda, c'è questa, la radio è perfetta, 10 come radio, nel senso come qualità è la tua voce, se fosse un peluzzino più alto era il top, per cui vale, lì bisogna trovare un microfono e fare un adattamento senza toccare niente la radio, col processore inserito magari abbassando, quella probabilmente in banda laterale lo usi il processore. Non lo so. Ah, scusa un attimino, allora fai la prova, no, adesso è migliorato, è bella la modula, prova col processore inserito e metti il mic gain al minimo, e voglio vedere una cosa, sentire anche, non vedere. C'è il processore inserito adesso? Sali un pochettino di un paio di punti. Va benissimo, fa un passaggio più lungo. Aspetta, faccio una prova adesso visiva col coso, con lo strumento, un attimo. Solleva ancora un peluzzo. No, 4 è troppo, abbassa un pochettino, mettilo a 3. Stai strappando un pochettino, dovresti abbassare e ottenere sempre una distanza uguale al microfono. Tu il microfono ce l'hai molto vicino alla bocca. Allora fai una cosa, tu utilizza, mettiti il microfono come parli sempre, alla distanza a cui parli sempre. Io non lo so se c'è a 10 cm, a 5, o se ce l'hai attaccato. E io poi ti dico come lo devi abbassare. No, solleva un pochettino. Metti 4. La perfetta. Lascia così, non toccare niente. Se ti tieni a questa distanza va benissimo. E a me adesso mi ha mandato il messaggio, aveva un po', ti ricordi di Salvatore Maestrale, probabilmente tuo babbo se lo ricorda. Lo sto rispondendo, mi ha detto che adesso chiudono tutto, il mio messaggio, ciao Roberto, come stai? In famiglia tutto bene, da noi da martedì si chiude tutto, si esce solo per andare a lavorare con il permesso rilasciato dal comune. Sarà Natale triste, un abbraccio. E adesso un attimo di bianco, lasciamo vedere se qualcuno vuole entrare nel frattempo, avanti chi vuole entrare, se no riprendi tu Claudio. E beh Claudio, da Ruggiusto. Buonasera, ben sentito, sono Tony Fondiario a tutti, ok, Urania, cosa fatti? Io ho un collega d'ascolto qua, stavo ascoltando, ok, va bene, la sto per chiudere, perfetto, Claudio, ora sono così che va benissimo, ha ragione Gianni, se non vado errato, sì, lascialo così che va benissimo. Prima se alzi strappa troppo, è troppa amplificazione, cioè, quindi tende un po' a strappare, a uscire un po' di, diciamo, un po' distorta la modulazione, la capito? Non so come sono arrivato io lì. Buonasera a tutti, ripeto, riprendi Claudio, a te cambio. Tu mi stai arrivando con un segnale di 8 con picchi a 9 che sta arrivando, ok. Stare uscendo benissimo, sono detto, lascia tutto così, sei perfetto, e sto arrivando forte io perché qua sto, ho caricato un po', adesso. Sì, ciao Uranio, ben sentito, anche a te, qua 9:15 il segnale, scendi a 9 quando diminuisci, dammi un rapporto anche a me se ti viene bene. Sì, sì, una bella radio, il 2001 è una grande radio, l'evoluzione della 48 con frequenzimetro, una bella radio. Ok, dei veicolari forse di quelli di recente produzione, uno dei migliori. No, stavo adesso, mi ha mandato il coso messaggio Salvatore Maestrale dall'Austria, dice che, vabbè, a parte che adesso chiudono tutto da martedì, gli manca tanto la radio, ha detto salutami tutti. Salvatore, non so se tu hai avuto il piacere di conoscerlo, tuo padre sicuramente, e tuo padre Gianni, l'ha passato poi in gamba. Era uno di quelli poi che ti divertivi, facevi belle conversazioni, sempre tranquillo, diciamo una persona squisita, sia davvero che in radio. Sì, conferma, infatti ti volevo chiedere quello lì, se non stai utilizzando, perché lì si possono fare regolazioni un pochettino più fini, nel senso che si riesce ad avere una modulazione ancora migliore, perché l'apparecchio, come tu fai un gran microfono, ce l'ho uguale identico io, è un po' macchinoso da regolare, però una volta che te lo regoli funziona benissimo. Tu parli della Donis o di cosa stai parlando? Ho detto, Claudio, stai parlando, avete venduto la Donis o l'MC60? Allora, l'MC60 è un grandissimo microfono per gli apparati della Kenwood. Se lo provi su altre cose, non è detto che renda, perché io l'ho provato su altri apparati, non è detto che va. Mentre la Donis c'ha di buono che c'ha tre uscite per tre apparati diversi, ICOM, Yaesu e Kenwood. Per cui lo commuti, per dire, te lo puoi commutare per l'apparato che ti interessa a te e ti fa l'equalizzazione. Ti posso garantire, lo puoi far uscire come vuoi tu, con gli acuti, con i bassi, c'ha 5 bande, o se adesso mi ricordo sono 5 o 6 bande di equalizzazione, c'hanno più o meno 12 dB, per cui sono tantissimi, è come che c'hai 24 dB di guadagno, sono tantissimi, riesci a fare delle correzioni spettacolari. Io molte volte lo uso e non se ne accorge nessuno, anche l'altro giorno mi hanno detto, pensavamo fosse 60, non te ne accorgi, perché ho fatto le regolazioni, naturalmente le ho fatte così così senza appentarmi più di tanto. Tanto, perché io in base a quello che mi dicevano gli altri, però me lo vorrei fare strumentalmente, vedere proprio l'equalizzazione perfetta, volevo fare, quando c'ho tempo me lo faccio. Ti posso dire, è un grandissimo microfono, il 908, se riuscite a trovarlo non è facile, però è un grande microfono. Io abbiamo fatto un attimino, scusatemi, riprendete voi. No, non so Roberto, però la prendo a portare il cane, sono entrato per rispondere un attimino a Gianni, a Francesco. Francesco, non esiste una cosa del genere, ok? Anche le radio vintage, quindi di quella come quella tua 720H che io l'ho posciuto 720H che io l'ho avuto, non hanno la batteria al litio all'interno dove può avere per le memorie queste della Kenwood, anche se sono datate. Quello, anziché avere la batteria al litio come il 780 che ho io della Kenwood, che è dello stesso anno del tuo, però è un base VU, se stai attento ci deve essere uno sportellino o sopra il coperchio o sotto, da qualche parte c'è uno sportellino piccolino, ok? In quello sportellino ci vanno due batterie da 1,53 volts, capito? Da 1,5 volts, 1,5, eh? E poi le servono per mantenere la radio in memoria, cioè se tu l'hai memorizzata, mi sembra che abbia 8 memorie, se tu hai memorizzato le 8 memorie devono rimanere. Se però tu non hai le batterie per mantenere il sistema della memoria, ogni volta che tu la spegni è chiaro che la radio si azzera, ok? Quindi controlla che deve avere uno sportellino o sotto la radio o sopra la radio dove c'è una un posizionamento di due batterie di quelle da 1,5 volt, come la mia. Sicuramente c'è. Se non è esternamente, è internamente. Capito? È internamente, siccome so che tu non l'hai mai aperta. Quindi è internamente. Se no, il mio è esterno. C'è uno sportellino con una sede, tu apri lo sportellino e ci sono le batterie. Se non c'è esternamente, è internamente. Ma le batterie per le memorie e per mantenere la radio in memoria ci sono in tutte le radio, dalla prima che è uscita fino all'ultima. Riprendo io e vado a portare il cane, altrimenti ci sentiamo dopo. No, no, ma no, non esiste. Già lo so chi te l'ha fatta, Francesco, non ti preoccupare. Ma te lo dico con certezza, perché quella radio l'ho avuta anche io negli anni che furono. Adesso non mi... se non c'è nello sportellino esterno sopra, perché con lo sportellino quello avverte ho fatto gli driver per fare delle misurazioni, ok? Solo quello ci può essere lì, o delle resistenze variabili dei trimmerini lì. All'interno ci deve essere la sede per le batterie. Vai tranquillo, perché il mio non era così. Io avevo memorizzato 8 memorie e quando lo accendevo rimaneva in memoria, quindi vai tranquillo che ce l'ha, te lo dico perché lo so con certezza. Ok, quindi bisogna aprirlo e vedere dove lasciare le batterie, metterci le batterie e tu vedrai che con la radio riprende a funzionare normalmente, perché il mio 780 c'è lo sportellino sopra, vedi quell'era lì, ha lo sportellino e anche da poco gliel'ho messo nuovo perché c'erano tanti anni, gli ho tolto, sono due ministri da 1,5 che alimentano appunto la batteria per far sì che rimanga in memoria la radio quando l'hai memorizzata. Ok, il cambio per te qua, di nuovo, io vi saluto, se ci siete a dopo esco col cane un pochino, vai, avanti qua. Io vi saluto tutti cordialmente, che c'è gente a casa, vi saluto, va. Buona serata a tutti. Sta difettando. Ma capo, ma dove sei, a casa di Marina? Sì, sì. E capo, una bomba sei in auge. Ah, vabbè, ne ha tanto, io. Ma vabbè, già si aggiusta. Devo trovare un tecnico a cambiarmi il filo del microfono. Cosa c'è il filo del microfono? Quando è andata male. Adesso domani lo porto al tecnico. Sì, a te la consiglio. Cazzo, un tecnico non sei tu. Vabbè, finché riesco a farlo lo faccio io. Fai cosa non riesci a farlo. No, vabbè, dico tutte le cose che faccio, finché riesco, bene, sono pazienza. Cazzo. Già ci si riesce a quello, ci mancherebbe. Fatela vedere a Claudio, poi c'era Coso, Roberto, e poi non mi ricordo, forse era l'altro Claudio del paese, da. E di Muros, non è che è arrivato lì. Stasera mi sarà Santiago 3. Però già ti arriva, se tu vai sul gatto di pianta, ti arriva lo stesso però. Che pianta? L'albero c'è di fronte. L'albero se la voce ma copre molto. Copre molto, sì, ma non via che se molto sega che cosa. Che cosa strana. Ci hanno fatto già la domanda, siccome quando c'è il vento, no? È un albero che è pieno di insetti, questi insetti bianchi. Poi c'ha quelli puzzolenti, come dice, le cimici. Senza contatto le foglie che ti porta dentro. Dice, ha fatto la domanda lì all'area per farlo portare. Cazzo. Allora cosa esiti? Portare, Giulia. Io ce l'avevo, rimaneva tipo una tossega col braccio lungo. 10 minuti, allora come tira fare chissà cosa. Ci vorrebbe un attrezzo del genere, ci vorrebbe. Quello che si viene agganciato del sfogliatore, a braccio lungo. Attacca il gatto di buono in mano, io dico che gli sta pianta, ui. Infatti, la sera a Giumale senta dentro casa. Ma. Vabbè, dai, adesso vado a prendermi il tram, ci sentiamo dopo la casa. Cappa, dai, già ci sentiamo. Ciugare. Ciugare, casa in casa, aspetta che entra la gente e poi mette la portante. E a me mi basta. No, ti fa niente a te. Vai, fate una pugnetta, vai, insomma, accudrati l'ozzi, sempre. Fate una pugnetta, vai, e fai meglio. Vai, Lucio, peggio un dra, vai. Di Arbu, mi viene niente in macca in sassa, ragazzi. Sono pure importante a me. Vai, fatti due seghe, vai, lo voglio che sono importante a me. E mangia pane. Va, uscia a bocco, va, cazzo, il gatto di Grimolente. Ah, perché sei mongoloide, sì, cosa cazzo buono è importante a me? Guarda, c'è di gente. Luca, perivella. Ma ragazzi, arrado, Luca, che devo andare a monte. Buonasera, Cra. Antonio Caterella. Bretella. No, Britella ci dice, no Bretella, Britella. Arriva un altro carriello. Oh ragazzi, ma che ti arrugare, mi rimescio. Il mal di schiena, speriamo stanotte con quest'altra bustina mi passi, cazzo, sono domani, lunedì, sono incasinato perso. C'ho mille cose da fare, ma dimmi tu, cazzo, Lo so, vado a voi vacca. Purtroppo. Quando ci arriva, quando c'è da bisogna stare un po' più calme, però la gara ti viene sempre, ti va, e cosa fai? Alla fin fine. Cioè, se non fai, non ti si basta un tempo. Sta fatto ancora, perché c'è stato un trattocco degli uffici da via San Francesco, e abbiamo venuto la casa via Livorno, quindi ho dato una mano loro a trattoccare. Poi mi dicevo un bocco a farmi qua, grande e portata su un bel pesante, perché l'ascensore arriva sino al nuovo piano, poi c'è un altro piano che devi fare a piedi, quindi l'ho caricata sulle spalle. La cosa quando è sceso a piedi le antenne, capito? Le antenne a piedi perché non ci stavano l'ascensore, imballate, parliamo bauli, ed erano 20 kg, quindi a piedi, dal decimo piano sino a terra. Caricate in macchina, ci ho fatto un sacco di cose pesanti, e quindi adesso mi sto presentando, già gli ho finito, già mi dai curva, però domani dovevo andare proprio lì, via Livorno, che arrivavano un mobile a vetrina, per mettere tutta la contabilità, ma chi vi piace lasciare dei gianielli, speriamo che passi sto mal di schiena. Capa, cosa vuoi fare? Ce l'ho fatto libero io. di sera ero libero, ero. Se mi fate un fruscio, ti dati la mano, ti trattava io a sopra. Sì, io ho fatto pensato, vedi? Non ci ho manco pensato, capito? No, un ascensore già c'è stato, fortunatamente, di traverso. Però poi dal nono piano, oggi l'ho dovuta salire al decimo piano, è un bel pesante, un bel, legno, massiccio, quello che aveva fatto Giulia. Anche quella piconina, la sopraelevata che metti sulla base, anche quella pesa. Ma non è quello il problema, è come ho dato una mano allora per bloccare, poi sotto, qua, tirando cave, passando i cavi dall'altra parte, ho fatto tutto un cambio, capito? E quindi mi sono un po' più l'antenna, mi ha giocato la giura, butto il bubu, spostata, a destra, a sinistra, e certe cose non le posso più fare. E quindi mi è venuto questo mal di schiena. Vabbè, già passa, piano piano. Io ho la roba al forno, lasciate 10 minuti e poi spengo, vado a papare, poi mi bocio, ma vedo la partita, c'è l'Italia nazionale, se me la fanno guardare nel salone, se no, ma niente, il telefonetto, mi bocio, mi bocco, io che me la guardo qua in stanza. È ancora a mangiare. Okay. Io ho già mangiato, non lo bello, perché è basso qua, la televisione, un casino. E mi sono messo già in tenuta sportiva per andare a letto, capito? Mi guardo la televisione fino a mezzanotte. E poi domani la solita rotazzi. Vabbè, domani lo vedi. E anche io domani mattina ci vado a fare un po' di cosette per conto del mio cognato. L'ho già detto, io non lo so bene, no, no, vai, intanto ce l'ho copiare a chiavi, che alle 9:30 vengono, infatti mi porto il cane, adesso 9:15, alle 9:30 viene quello del arredi d'ufficio, bucco del gamendola, a portare una vetrinetta con i grugli, pesci, eccetera, va a placare, per mettere la contabilità. Ma guarda, un mal di schiena, ne avevo già preso 12. Infatti Manuele quando le viene ha ragione, perché è impressionante. Adesso mi sta drizzando. Da ieri e stamattina ho detto tutto gobbo. A me mi blocca camminare invece. Ciao Antonio, vieni. Buonasera Tonino, buonasera. Io qua. Se non li bevate questi travagli, fate aiutare. Ma ieri sera ero libero io. Mi chiamavi un attimo, mazzava e ti davo una mano, non c'era nessun problema. E vabbè, un'altra volta anche io sono fatto la femmina, mi voto il trio quasi. È normale, però bisogna anche limitarsi un po'. Ma poi siamo a Dichina che non ne vuoi più. Te lo so, però mi avvergo, quindi sai, è anche roba mia, lì ho dato una mano, qualche mobile che c'era ancora in via San Francesco abbiamo portato qua a casa, capito? Per quello ho fatto dei cambiamenti qua in stanza, tanto la base grande, la mano non ci fa niente, le ho smontate tutte e due, le portate su, c'ho la base piccola, perché la radio una parte l'ho venduta e una parte l'ho tolta. Capite, quindi allora antenna per forza la devo caricare in macchina, poi c'è una porta scorrevole in legno, lo stesso che ho portato su, quindi io ho fatto un po' di sforzi, però non mi vado, io non potrei parlare a nessuno, e non era niente, sì, già c'era gente anche tu, no, loro si occupavano del trasbocco, c'era Bau. Sono i figli di Angelo Bau, figurati, ho fatto loro il trasloco per San Francesco via di Roma. Però la roba che poi serviva a me, me la sono presa io, quindi non è che potevo portarmela a casa. Va bene, va bene. Ah, sei gente venuta da combattimento, Tori. Ehi, tanto. Altre due mani, un mobile, gli accordiamo a Manuele. Esisteva così più, no. Lui si è preso acqua, si è gonfiato, tutto il metodo di legno ha tolto, ha avuto toccarlo, levigarlo e portarlo liscio liscio come prima. Uno sportello che dici sopra. E insomma, una cosa che fare, dai. Vabbè, ma già a posto. Si può modificare, è chiaro che devi nuovamente stuccare, fare. E vabbè. Andare. No, io no. Nessun mobile, ho recuperato praticamente delle cassettiere che mi servivano, ma sono belli anche quell'altro. Ho svuotato tutti i cassetti, c'è un mare di roba, i microfoni, i cavi con i cavi, insomma tutte le cose messe in ordine, ma quando apro i cassetti e vado a cercare qualcosa non c'è bisogno di buttare tutto, capito? Per quello sono messo a posto, ho sempre ginocchiato, bisogna con la terra, è chiaro che mi ha fottuto, vabbè, pazienza. Già passa. Capo, è fatto bene, dai, ha messo tutto a posto. Capo, non è grande questa soffitta? La mansarda? La mansarda è 75 metri quadri, la punta più alta è 3,50 m, la punta più bassa è 1,70 m, perché è fatta a Mantovana, che è abitabile, solo che non c'è abitabilità, capito? Quindi no, non ci puoi vivere. Succede qualcosa, è un casino, non c'è abitabilità perché è nata come soffitta. Vabbè, però uno, se magari si può fare un qualcosa, uno studio, qualcosa, se gli serve e via. Oh, si può sempre chiedere l'abitabilità, la verità. Sì, che si può chiedere, non so che cosa ci voglia, che modifiche ci vogliono, ma non penso, non lo so. Per il momento non mi interessa. Già andrei su viaggio, abbiamo recuperato anche un po' di moneta. La casa via San Francesco. Uia. Va bene, no, tanto c'ho tutta roba, attrezzatura, tubi, roba così, poi sono mobili. E ho fatto mettere anche da poco nella parte che ho tutto pulito, ordinato, anche la roba condominiale, perché lì praticamente tutti abbiamo un diciottesimo, capito? Siamo tutti proprietari, non solo io, quindi, però siamo tranquilli, siamo accordati, quindi ognuno c'ha il suo pezzo, io metto la roba dove piace a me, ma le chiavi ce le ho praticamente io, non ci sarà mai nessuno. Hai un po' di tutti quella lì. Vabbè, già comunque già è bello sempre uno spazio, guarda. È bello, sì. È bello, ma adesso abbiamo messo tutto in ordine. Prima eravamo mezzo montinaccio. Ho avuto un po' di discussione, adesso basta. O mettete tutto in ordine, se no viaggiamo la giornata, non va a fare nessuno. Capito? Perché io prima non avevo piano, quindi usufruisco io della soffitta. Poi sono sceso al secondo, però in pratica ho sempre comandato io. Va bene, riprendi i toni, dai, un altro passaggio, poi io vi saluto e vado a cenare, ok? Ti vado a tenere foto, oh, Claudio, non ce l'hai scritto in vicino? No, aspetta, ve lo prendo, perché anche scarico, come sempre. Ma c'è la portantina, sento tu ogni tanto, vabbè, meglio e basta. Toni, un maraddo, un mongolino, lasciamo fare. Ma è basso, vabbè, ci rimane vorrei me. Ce n'è poco. Ma infatti arriva a basso qua. E che sono mongoloi che mi poneva importante a me. Male ti viene adesso. E come sono mongoloi? Già te lo spiego già. Quando abitavo giù alla Todorcia, sempre rompendomi le balle. Là, se lo vedevi prima col mobile, non lo riconoscevi, si deve essere preso l'acqua. Ma quanto mattana, con le cose che mi richiede sono le soccature che ho dovuto fare, ma mano a mano diventa scuro, mano a mano che sto passando le mani, e devi diventare come la tua pannella a fianco. Cosa ti sembra? Io lo fai bene, no, io qua portanto non è vero perché non arrivo, quindi no. Non mi preoccupare. nessun problema. Ok. E piano piano te lo metti a posto, Tony, dai, non ti preoccupare. Ok ragazzi, io vi saluto, ciao Antonio, ciao Tonino. Chiunque faccia l'ascolto, se 10, dai, chiudo tutto, vado a mangiare e poi mi trovo.